Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Se dovesse rientrare in Italia, c'è qualche domanda che in questi anni le è rimasta nel cassetto? La domanda è sempre quella: perché? A che fine questo odio? Questa domanda Alberto Torreggiani la conserva da anni ed è con la speranza di riuscire un giorno a porgerla direttamente ad uno dei responsabili della morte del padre, un gioielliere milanese che segue le alterne vicende sull'estradizione di Cesare Battisti, l'ex leader dei proletari armati per il comunismo, condannato in Italia all'ergastolo per 4 omicidi. Lasciata la Francia, ora è in Brasile, dove gli è stato concesso lo status di rifugiato politico sul fondato timore, spiegò il ministro della giustizia Genro, di persecuzione per opinioni politiche. L'ultima parola spetterà al presidente brasiliano. E sul caso Battisti torniamo in questa puntata delle storiacce un po' diversa dal solito. Nostro ospite oggi non è un imputato eccellente, non è un magistrato scomodo, né, come in genere accade, il protagonista di una storiaccia, fortunatamente per lui, ma è una voce ben nota agli ascoltatori di Radio 24. Benvenuto quindi a Giuseppe Cruciani, che ha scritto Gli amici del terrorista. Allora Giuseppe, chi sono questi amici del terrorista, che è il titolo del tuo libro su Cesare Battisti, edito da Sperling & Kufer? Allora, gli amici del terrorista sono politici, intellettuali, scrittori che in questi anni, in questi 30 anni hanno consentito a un pluriomicida di farla franca, cioè di sottrarsi alla giustizia italiana. Sono convinto che senza le pressioni di questi signori Cesare Battisti sarebbe in questo momento in galera in Italia sicuramente. Prima di andare un po' all'interno della storia di Battisti, che tu racconti appunto nel tuo libro, uno spunto dall'ultima cronaca. A fine giugno l'ultimo viaggio in Brasile di Berlusconi con Lula. Sappiamo che spetterà a lui l'ultima parola sulla estradizione. Nella conferenza stampa il presidente brasiliano non si è voluto sbilanciare sull'esito appunto della sua decisione. La questione ormai è bloccata lì da tanto tempo. Tu che idea ti sei fatto? Come andrà a finire questa storia? Secondo me nulla si sbloccherà prima delle elezioni presidenziali in Brasile, che sono fissate per il prossimo mese di ottobre. Ci sono due candidati, uno della sinistra, per semplificare, che è Dilma Rousseff, e l'altro è Serra, che è il candidato della destra. Diciamo, quello di sinistra ha più o meno la stessa posizione dell'ex ministro della giustizia Tarso Genro, quello di destra è favorevole all'estradizione. Ma al di là di questo, credo che la decisione non potrà venire appunto prima delle elezioni presidenziali brasiliane, e secondo me alla fine Battisti resterà in Brasile. La mia previsione è che gli sarà dato un salvacondotto di tipo umanitario, cioè rimarrà in Brasile per motivi umanitari, cioè per motivi di salute. Quindi non riuscirà l'Italia a fargli scontare la sua pena? Secondo me è passato troppo tempo dall'arresto di Battisti in Brasile, e se le cose vanno come sono andate per altri terroristi che sono stati catturati in Brasile, molto difficilmente Battisti tornerà in Italia. Il Brasile ha una tradizione da questo punto di vista di accoglienza di ex terroristi, chiamiamola così, chiamiamola accoglienza, che è molto chiara. Sì, sappiamo infatti che il Brasile è uno dei paesi che è notoriamente contrario all'estradizione, ma per far leva anche su un esito diverso, il nostro governo si sta impegnando da tanto tempo, e uno dei punti che è stato anche sottolineato nelle trattative, nei retroscena anche diplomatici e politici, è stato la condotta anche giudiziaria di Battisti. Battisti ha sempre rinnegato l'istituzione giudiziaria italiana, Battisti si è sempre sottratto dai processi, anche nelle ultime missioni in Brasile, anche dell'inviato del governo, il procuratore Italo Ormanni, pare, secondo indiscrezioni, che questo sia stato un punto centrale fatto presente al governo brasiliano, anche si dice al confronto di una condotta opposta di Adriano Sofri. Secondo te questa storia processuale non avrà alcun peso nella decisione del Brasile? Secondo me no, la questione non è più giudiziaria, come invece continua a dire il presidente brasiliano Lula e come dice in parte il governo italiano. La questione è solo ed unicamente politica, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che il Tribunale Supremo brasiliano, che è come la nostra Corte Costituzionale, a un certo punto alla fine dell'anno scorso ha deciso per l'estradizione di Battisti, ma ha affidato l'ultima parola al Presidente della Repubblica, una decisione abbastanza anomala nello stesso Brasile, che vuol dire solo una cosa, vuol dire che la politica prevale su una decisione giudiziaria, cioè dal punto di vista giudiziario Battisti doveva già essere in Italia perché è stradato, perché così ha deciso il Tribunale Supremo, e invece lo stesso Tribunale Supremo ha affidato l'ultima decisione al Presidente del Brasile. Questo significa che Lula non decide più in base, o il prossimo Presidente del Brasile non deciderà più in base a carte giudiziarie, ma deciderà solo e unicamente in base a valutazioni di tipo politico. E in queste valutazioni secondo te non rientra neanche la condotta dello stesso Battisti? Battisti, l'abbiamo già detto, oltre al fatto di essersi sottratto ai meccanismi della giustizia italiana che gli prevedevano ad esempio anche le richieste di revisioni dei processi, non ha mai cambiato neanche la sua condotta e le sue opinioni sul suo passato. Anzi, come riporti tu nel tuo libro, nel 2001 ancora diceva: la mia guerra è finita, non rinnego e non rimpiango, anzi ho disprezzo per i pentiti. Dopo aver studiato anche per mesi la figura di Battisti, che idea ti sei fatta? Chi è? Credo che Battisti non abbia mai cambiato idea sullo Stato e sulle istituzioni. Certamente ha rinnegato da tempo la lotta armata, non potrebbe essere diversamente, non è come uno degli irriducibili che abbiamo visto recentemente in alcune aule dei tribunali in Italia. Però credo che in fondo rimanga il disprezzo per le istituzioni democratiche, e in particolare per le istituzioni democratiche italiane. Un disprezzo che viene fuori dalle sue parole, alcune di queste le hai ricordate tu, viene fuori anche dalle sue interviste che hai lasciato in carcere negli ultimi anni, ed è un disprezzo nei confronti delle istituzioni democratiche italiane, del funzionamento della democrazia in Italia, che condivide con molti dei suoi amici che lo sostengono. È una partita diplomatica più ampia, l'hai già detto, come in tutte le trattative ognuno mette sul piatto qualcosa. Secondo te l'Italia, per tentare almeno di portarsi a casa Battisti, che evidentemente sarebbe un bel successo politico e anche mediatico per il governo Berlusconi, potrebbe mettere sul piatto qualcosa? Hai sentito qualcuno anche dall'altra parte dell'oceano nel lavorare al tuo libro? Beh, la mia impressione è che naturalmente sarebbe un successo per Berlusconi dal punto di vista politico riportare Battisti in Italia. Penso che abbia da questo punto di vista perso le speranze, cioè non credo che poi il governo Berlusconi, al di là delle parole, al di là delle chiacchiere, al di là delle urla e dei comizi e di alcuni ministri, non credo che abbia fatto poi moltissimo. Cosa voglio dire? Non voglio dire che non si sia battuto per l'estradizione, non è disposto però lo stesso Berlusconi e tutto il governo con lui a sacrificare qualcosa per Battisti. Battisti è una storia vecchia, una storia del passato, per Berlusconi è più un fastidio che una questione di giustizia. Dunque credo che se va come io prevedo, cioè Battisti resta in Brasile, ci saranno certamente delle proteste formali, ma al di là di comunicati, magari ci sarà pure il ritiro dell'ambasciatore per qualche giorno, ma insomma al di là di alcune piccole cose non si andrà. Quindi in realtà non è che poi secondo te gli interessi più di tanto? Guarda Raffaella, il punto è questo: tutti i governi italiani, lo raccontano anche alcuni ambasciatori francesi in Italia, alcuni collaboratori di François Mitterrand, del presidente francese Mitterrand, dicono che sulla questione dei fuoriusciti in realtà tutti i governi italiani, tranne il governo De Mita incredibilmente, e lo stesso De Mita durante un vertice bilaterale, non erano molto interessati a far rientrare questi personaggi in Italia, in primis Toni Negri all'epoca, ma anche gli altri, perché erano considerati più un fastidio anche per le cose che potevano raccontare, per le cose che potevano dire, un fastidio che è un successo magari riportarle in Italia. Veniamo ad alcuni degli episodi che tu ricostruisci nel tuo libro e che, anche se vengono dal passato, però Battisti anche per il suo uso stesso dei media li ha riportati in sempre di stretta attualità. Non molto tempo fa, anche in un'intervista dalla carcere, è tornato ad accusare il procuratore milanese Armando Spataro, chiamandolo il capo dei torturatori, al di là delle sue parole. Ovviamente in queste parole c'è un esplicito riferimento ad un episodio ben preciso dopo l'omicidio Torreggiani. Che cosa successe? Dopo l'omicidio Torreggiani, la Digos, insomma la polizia milanese, identifica la targa di una macchina che era servita per l'uccisione di Torreggiani, una delle due macchine, e questa macchina appartiene a Sante Fatone, che è un militante del collettivo autonomo della Barona e che poi si scoprì aver partecipato all'omicidio di Torreggiani. Viene fatta una vera e propria retata tra gli amici di Fatone che appartenevano al collettivo autonomo della Barona e comunque ad alcuni autonomi residenti soprattutto in quel quartiere alla periferia Polizia di Milano. Alcune di queste persone vengono scarcerate dopo qualche giorno, altre vengono scarcerate dopo qualche settimana. La maggior parte di quelli arrestati in quei giorni, si parla del febbraio del 79, risulteranno poi estranei all'omicidio di Torreggiani. Non tutti, però la maggior parte risulteranno estranei. Dopo essere usciti dal carcere, alcune di queste persone presentano delle denunce per torture subite. Queste denunce fanno partire un'inchiesta che porta all'archiviazione. Il punto è questo: cosa c'entra la questione delle torture o delle presunte torture nella vicenda Battisti e nei processi di Battisti? Assolutamente nulla. Battisti, i processi in cui è stato condannato, non sono mai stati influenzati dalle frasi o dalle testimonianze di queste persone che sarebbero state torturate. Peraltro di queste torture poi non si parla più, gli stessi torturati, tra virgolette, non riportano o non parlano più delle torture nemmeno in sede processuale, e secondo gli inquirenti dell'epoca, secondo i magistrati, c'è scritto anche in alcune sentenze, queste torture, le denunce delle torture vennero presentate dagli avvocati e dagli imputati per cercare di distogliere l'attenzione sulle indagini che in quel momento erano dirette verso l'area dell'autonomia milanese, ed era una direzione giusta, perché poi effettivamente gli assassini di Torreggiani provenivano da quell'area. Di recente ho sollecitato su questo anche lo stesso procuratore Spataro, in una sorta di parallelo tra questo caso e quello che ha lui negli ultimi anni perseguito nel processo Abu Omar. Sì, però questo in senso opposto, perché mentre per Abu Omar è pacifico che è stato sequestrato per essere portato in Egitto e torturato, la vicenda Battisti fu curiosissima, perché dopo l'omicidio Torreggiani accadde che un testimone, forse caso unico nella mia esperienza, vide fuggire gli assassini su una macchina, li seguì, vide quando cambiarono auto e salirono su un'auto pulita, di cui rilevò la targa, che comunicò alle forze di polizia. In serata praticamente la polizia era addosso al gruppo degli assassini, molti furono portati in questura, sentimmo i parenti, i quali smontarono di fatto gli alibi, insomma in sostanza la polizia arrivò alla verità in direi meno di 48 ore. Bene, già dal un paio di giorni dopo questo sviluppo investigativo i giornali furono pieni di notizie secondo cui anche i parenti dei sospettati, per essere indotti a smontare con dichiarazioni false gli alibi veri dei sospettati, sarebbero stati torturati. Addirittura qualche giornale autorevole parlò di amputazioni, guardi, non si può proprio immaginare. E recentemente anche Battisti in Brasile si aspetta, come si sa, la decisione di Lula, dopo che la Corte Suprema ha detto che l'estradizione sarebbe da attuare. Battisti ha diffuso una sua lettera in cui mi attribuisce, come dire, il ruolo di coordinatore dei torturatori. Io per il momento coordino il reparto antiterrorismo, all'epoca neppure quello. Storielle. Storiacce. Sull'esito di questo caso, quindi della vicenda dell'estradizione di Battisti, hai fatto già un riferimento prima a questo fronte, soprattutto francese, contrario all'estradizione, quindi pro Battisti. Ha un peso, secondo te, nella decisione che prenderà o non prenderà il Brasile? E tra i nomi eccellenti si è sempre parlato anche di Madame Sarkozy, Carla Bruni. Lei ha sempre smentito, in questo momento all'Eliseo ci sono ben altre questioni da affrontare, ma tra le pieghe, diciamo, del materiale che hai raccolto per il tuo libro si può intravedere anche una presenza dietro le quinte della Carla Bruni? Io penso che un ruolo lo abbia avuto, perché in realtà siamo in questa situazione per le pressioni che ci sono state precedentemente. Dunque il passato in questo caso ha un'importanza, il passato recente delle pressioni di questo gruppo, di gruppi di intellettuali e di politici. Io penso che Carla Bruni e Sarkozy abbiano avuto un ruolo. C'è stato un incontro, lo riporta la scrittrice Fredde Vargas, che è molto vicina a Battisti e che è anche amica di Carla Bruni, un incontro all'Eliseo tra la stessa Vargas e la coppia presidenziale. Alcuni deputati brasiliani dicono che c'è stato un ruolo attivo da parte di Carla Bruni. Tu hai ricordato che lei ha sempre smentito. Io credo che un ruolo nel convincere Lula e alcuni ministri brasiliani che fosse il caso di concedere a Battisti lo status di rifugiato risultato politico, io credo che lo abbiano avuto. Ma perché secondo te una mobilitazione così forte? Voglio dire, Battisti non è né il primo né forse sarà l'ultimo dei fuoriusciti che scrive e che assume una certa notorietà anche come intellettuale. Non c'è mai stata una presenza così numericamente significativa e anche così costante contro l'estradizione. Spataro spiega, ed è stato anche più volte in Francia proprio per questa vicenda, spiega questo impegno dell'intelligenza francese come una scarsa conoscenza anche di come siano andate effettivamente le cose in Italia negli anni di piombo, sulla diffusione di luoghi comuni come tribunali speciali, assenza della difesa degli imputati. È solo questo secondo te? Insomma, sono persone che avrebbero tutti gli strumenti per sapere come stanno le cose. Eppure Spataro ha ragione, avrebbero tutti gli strumenti per capire come sono andate le cose, avrebbero tutti gli strumenti per capire il nostro paese, il passato del nostro paese e il funzionamento della giustizia. Invece credo che ci siano in primis l'ignoranza sul funzionamento delle istituzioni giudiziarie in Italia. La giustizia in Italia ha mille difetti, ma certamente non si sono fatti tribunali speciali, nessuno è stato torturato negli stadi o ucciso e soprattutto nessuno è stato imprigionato per le idee. Sono le persone che sono state processate, sono state processate sempre per fatti specifici, per reati di sangue o reati associativi, mai per le idee che avevano. La seconda questione riguarda un pregiudizio anti-italiano che sicuramente c'è in Francia e poi l'essere scrittori, lo hai già accennato, questo conta in Francia incredibilmente. Se uno è scrittore fa parte di un mondo importante, considerato, apprezzato in Francia e fai parte di una sorta di casta che è considerata non solo influente ma anche intoccabile da un certo punto di vista. Essere scrittore in Francia non è la stessa cosa che essere scrittore in Italia, significa appartenere ad un mondo di persone ascoltate. Gli scrittori sono quasi più importanti dei politici in Francia. E il fronte italiano invece? Il fronte italiano è fatto da 2-3 mila persone, sono quelle che hanno sottoscritto il primo appello nel 2004 per la liberazione di Battisti. Ci sono politici anche se di minore importanza, non ci sono grandi leader politici per fortuna, però all'epoca c'era tutta Rifondazione Comunista, una parte dei Verdi schierata, sto parlando del 2004, a favore di Battisti. Scrittori invece importanti, scrittori come Valerio Evangelisti, come Tiziano Scarpa, come Henri De Luca e altri ancora, e tutto un fronte che riguarda oggi l'antagonismo. Questo mondo è sicuramente dalla parte di Battisti. A proposito di scrittori, tu ricostruisci nel tuo libro un incontro tra Battisti e Paco Ignazio Taibo II. Come è andata? Beh, lui quando era in Messico, la latitanza di Battisti si è divisa tra Francia e Messico, qualcuno dice anche Nicaragua. Incontrò Paco Ignazio Taibo II, che lo avvicinò al mondo della scrittura. Lui all'epoca scriveva in Messico per una rivista, dunque lui si può dire che è diventato scrittore successivamente di libri noir di successo, di libri gialli di successo, grazie a questo incontro con Paco Ignazio Taibo II. Lui ha incontrato anche Pino Cacucci all'epoca in Messico. Alla sua esperienza messicana si è ispirato un personaggio di Salvatores del film Puerto Escondido. Con alcuni di questi lui poi entrò in conflitto, perché in particolare con Cacucci, perché ha accusato successivamente Cacucci di avergli rubato alcune idee, diciamo così. E c'è anche qualche pendenza giudiziaria? No, non ci sono pendenze giudiziarie, ci mancherebbe altro che ci fossero pendenze giudiziarie, però lui ha accusato alcuni dei personaggi che ha incontrato lì di avere sfruttato alcune sue idee e anche di aver utilizzato la sua storia poi per fare dei romanzi, per scrivere dei romanzi e poi per il film. Hai citato il Nicaragua, volendoti fare una domanda un po', diciamo, anche provocatoria, sì, se fosse anche una specie di una domanda di quelle che ti arrivano dai tuoi ascoltatori della Zanzara, ma perché secondo te con Battisti c'è stato un impegno forte? Il governo ci ha messo la faccia, al di là di come sarà l'esito di questa battaglia per avere questa estradizione, ma invece si potrebbe fare un elenco ben più lungo di terroristi coinvolti in fatti altrettanto drammatici e cupi della storia italiana, a cominciare dal caso Moro. Appunto, Casimirri se ne sta in Nicaragua e il governo non se ne preoccupa per niente. Sì, qualcuno cita anche il caso di Delfo Zorzi, il caso Casimiro, altri. In realtà l'impegno su queste storie c'è stato, anche se molto limitato. Beh, non si può fare un paragone tra questi due? No, a livello di impegno mediatico no, però a livello di impegno di diplomazie, di Ministero degli Esteri sicuramente sì. Il problema è che sono casi diversi. Zorzi, per esempio, molti militanti, diciamo, dell'area, di un'area che si può dire vicino a Battisti, dicono perché il governo si impegna molto su Battisti e non su Zorzi. Ma Zorzi è cittadino giapponese, è un caso completamente diverso rispetto a quello di Battisti, che certamente non è cittadino brasiliano, altrimenti il problema non si porrebbe neppure. Lo stesso Casimiri, si sa che è protetto dal Nicaragua da tantissimi anni, per cui al di là delle dietrologie, cioè cosa potrebbero raccontare Zorzi o Casimiri una volta arrestati o una volta portati in Italia, io credo che poi ogni caso abbia le sue particolarità. Il caso Battisti è diverso, diversissimo, sia dal caso Zorzi che dal caso Casimiri. Secondo me l'impegno dell'Italia in realtà non c'è nemmeno sul caso Battisti, c'è dal punto di vista mediatico. Non credo che sia questo il punto, l'impegno che c'è su Battisti e l'impegno che non c'è o non c'è stato per altri casi. E per te invece? Come mai un libro su Battisti? Perché un ex di Aria Rossa? No, perché intorno a Battisti si è creato questo mondo, ma non solo intorno a Battisti, intorno anche ad altri ex terroristi, questo mondo di intellettuali, di scrittori, di persone che difendono un pluriomicida. Volevo capire perché, volevo capire dalle carte giudiziarie innanzitutto le condanne definitive da che cosa nascevano e se c'era un pregiudizio, come dicono i suoi sostenitori, nei confronti di Battisti. Io questo pregiudizio non l'ho trovato, e poi penso che intorno alla vicenda di Battisti sia stata creata una delle più grandi opere di mistificazione della verità negli ultimi 10, 15, forse 20 anni. Cioè il far passare uno che ha ammazzato 4 persone o che ha partecipato all'uccisione di 4 persone come una sorta di perseguitato dallo Stato italiano che vorrebbe metterlo ai ferri. Ecco, insomma, anche questa è una responsabilità che tu attribuisci a quegli amici del terrorista di cui parlavamo all'inizio? Assolutamente sì, amici del terrorista che sembrano essere poco influenti perché magari non hanno in mano le leve del potere, e che invece sia in Italia ma soprattutto in Francia e in Brasile, cioè nei paesi che devono poi decidere l'estradizione, hanno avuto un peso nell'ispirare la decisione dell'elite politica. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre storiacce sul sito radio24.it e nella pagina del programma troverete anche le altre puntate dedicate al caso Battisti. Ma oggi vi voglio segnalare anche che parte un blog delle storiacce: www.radio24.it/blog/calandra. Andatelo a guardare e poi ne parliamo. Ciao, a sabato!